Cerco parole che dicano il bello di noi, ma quelle vere mi sembrano stupide. Poi sotto il mio letto è nascosta la felicità, quella del nascondino che tanta paura mi fa. Penso così per il piacere del gelato, la fretta nel mangiarlo e il dolore che mi ha provocato. Penso così per lo schiaffo ricevuto, il dolce che ha lasciato, cosa giusto, cosa è sbagliato. Ascoltare la la la, sporcarsi le mani e la la la, sbagliare con la tua testa, puoi chiedere scusa e la la la, vegetariano e la la la, tutto crudo e la la la, il pensiero radical chic quasi mai e la la la, un passo alla volta e la la la, il rock and roll e la la la, ma Lady Gaga seminuda al pianoforte più la la. Avere un tattoo non fa da apripista, indossare il cappello non fa di sé un artista, seguire la moda, vestire comico, do più spazio alla pelle, al mio lato comodo. Penso così per la bellezza del geranio, era triste e trascurato, l'ho curato ed è rifiorito. Penso così per la certezza della strada, in un angolo poco asfaltato a gambe nude sono cresciuto. Con un tuo bacio mi sento la la, imparare a star soli e la la la, disegnare sul vetro appannato rimarrà sempre la la, Papa Francesco e la la la, gli addominali son la la la, ma la buffata con gli amici sarà sempre più la la, un pensiero libero e la la la, perdere tempo e la la la, i vizi fanno male ma porca miseria son la la la, Sorrentino e la la la, la carta per terra non è la la la, ma riascoltare la stessa canzone a ripetizione la la la, riascoltare la stessa canzone a ripetizione la la la, riascoltare la stessa canzone a ripetizione la la la, la la.